Salve a tutti, questa è la terza puntata del Popolo di Barabba. Io sono Stefania e sono sempre qui con gli amici di Radio Big World. Il mese di ottobre è il mese missionario e come volontaria spesso vengo chiamata a fare degli incontri con i bambini e con i ragazzi delle scuole. Proprio in queste settimane ho avuto questa opportunità, grande opportunità, io la chiamo una grande opportunità perché mi dà modo di stare insieme a quelli che poi saranno gli uomini del domani. Dunque, questi ragazzi avrebbero dovuto lavorare, mi auguro che ci lavorino, su delle parole chiave che sono pace, accoglienza, giustizia, cura dell'ambiente. E io appunto dovevo fare un incontro dandogli degli stimoli, degli spunti. Ho portato loro tre video molto brevi, uno relativo a delle immagini di guerra nel mondo. Le guerre nel mondo oggi sono 36, tra guerre e conflitti nel mondo, 36, un numero veramente incredibile. L'altro video era relativo alla più grande discarica di high-tech del mondo, che si trova in Africa, in Ghana, precisamente nella capitale vicino ad Accra. E l'altro video era relativo alla cura dell'ambiente, anche se questi due non sono svincolati. Comunque questo era proprio più specifico. L'isola di Midway nel Pacifico settentrionale è un'isola praticamente fatta di plastica, ricoperta di plastica, e quindi gli effetti che poi questo elemento ha sugli uccelli, sulla fauna, sui pesci. Dunque, ho fatto vedere questi video. Erano ragazzi di scuola media, terza media, quindi 13-14 anni. Insomma, mi aspettavo che questi ragazzi, se non altro, anche se sono problemi lontani da loro, perché vivono in un contesto completamente diverso, per fortuna per loro, mi aspettavo attenzione, silenzio, quantomeno, insomma, perché erano immagini davvero parecchio crude, ecco, al che quando le ho scelte ho chiesto anche agli insegnanti se era il caso, dico, e poi ma sì, perché no? Ne vedono veramente tante, anche su internet, di peggio, e quindi va bene così, far vedere la realtà del mondo anche. Ecco, la mia delusione davvero è esplosa proprio in tutte le sue forme, perché che cosa ho trovato? A parte uno o due ragazzi veramente in gamba, e per fortuna insomma uno o due c'erano, gli altri, quindi una cinquantina, veramente di un vuoto. Vuoto, neanche diciamo contrari a vedere questi filmati, quindi distratti, no, il vuoto proprio assolutamente, quindi risatine, quindi superficialità, vedere i loro coetanei con il mitra in mano gli suscitava solo allegria, scherzo, questo è davvero tanto triste. Tanto tanto triste. Ho raccontato loro la storia dei bambini soldato nella Repubblica Democratica del Congo, perché quelli io li ho toccati proprio, li ho visti, li ho conosciuti, li ho toccati con mano, e non li ha scalfiti assolutamente. Ho raccontato loro i bambini che sono costretti a vivere nella striscia di Gaza, un territorio palestinese grande più o meno come la provincia di Siena, dove sono costretti a vivere più di 1 milione di persone, in condizioni drammatiche, non hanno acqua, cioè ragazzi, bambini nati nella guerra, vissuti nella guerra, che hanno subito la guerra. Quindi che persone potranno essere oggi, gli adulti di oggi, quei bambini che sono nati ieri? Perché è 60 anni che c'è la guerra, se di più, che c'è la guerra in Palestina, Israele. E loro sono rimasti sempre con quel sorriso vuoto, peraltro, come se raccontassi la storia di Nembo Kid, ora non so, di Batman, insomma, dei Minion, non so che cosa. E poi quando ho chiesto loro di fare delle domande sul se c'era qualcosa che l'avevano, che li aveva colpiti. C'è stato solamente uno che ha detto, in merito alla discarica più grande del mondo di Hi-Tech, che ha detto: beh, bisognerebbe usare un po' di più quello che abbiamo prima di buttarlo via quando è ancora nuovo, per sostituirlo con uno più moderno. Ecco, questo era uno di quei due ragazzi che hanno avuto un po' più di attenzione. Questo mi ha rincuorato, questo mi ha veramente aperto il cuore e mi sono chiesta, sì, la delusione è veramente gigantesca, però è bastato solo un ragazzo che avesse detto, che sì, abbia detto una cosa del genere per ridarmi la carica per continuare ad andare avanti sui progetti e sulle idee che vorrei seminare nel nostro territorio. Una cosa, un'altra riflessione ho fatto poi quando sono venuta via, che da bambini io vedo il mio nipotino che mi fa, ogni volta che faccio qualcosa, seguono decine di perché, il perché, il perché. Ecco, questi ragazzi non se lo chiedono più. A un certo punto della nostra vita i perché non si chiedono. Forse diamo per scontato, non siamo più curiosi, siamo disincantati, non lo so. Ecco, a un certo punto della nostra vita i perché non si chiedono più. E questo è un grave dramma, veramente, è proprio un dramma. Io per oggi ho concluso, vi ringrazio dell'ascolto, spero che qualcuno voglia anche contattarmi per discutere anche di questi seri problemi. Grazie.